Il giorno dopo resta la conquista, ottenuta con lo sforzo di tutte le istituzioni, dal Comune alla Presidenza del Consiglio, parole di Letizia Moratti. Questo risultato è figlio di tutti noi, non avremmo potuto ottenere questo risultato senza questo vero gioco di squadra. L'area che ospiterà l'esposizione è vicina al nuovo polo fieristico Roppero, una scelta dettata dalla fiera ma anche dalle infrastrutture già operative. Gli investimenti in campo superano i 3 miliardi, lo Stato sosterrà il 46% delle spese, gli enti locali metteranno il 26%, mentre i privati investiranno quasi 900 milioni. Obiettivi e preoccupazioni dell'ente fiera nelle parole di Enrico Pazzali, direttore generale. La zona dell'Expo sarà una zona periferica di Milano con delle infrastrutture che permetteranno la residenzialità. La mia preoccupazione sarà quella di minimizzare le scomodità che le infrastrutture in esecuzione creeranno. Ma c'è di più e ben oltre i confini di Milano. Secondo le stime gli investimenti complessivi toccheranno quota 20 miliardi e i nuovi posti di lavoro saranno circa 70.000. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore.